Listen to the hummingbird whose wings you cannot see. Listen to the hummingbird. Don't listen to me. Listen to the butterfly whose day's but number three. Listen to the butterfly. Don't listen to me. Listen to the mind of God, which doesn't need to be. Listen to the mind of God. Don't listen to me. Listen to the hummingbird whose wings you cannot see. Listen to the hummingbird. Don't listen to me. Ciao a tutti. Questo era Leonard Cohen che ci ricorda di ascoltare. Io sono Lollo Catti e questo è Club Chimera, un programma dedicato alla musica, all'ascolto, ai suoni e a tutto quello che viene toccato tangenzialmente da queste pratiche, queste esperienze. Dopo la puntata di un mese fa mi sono molto chiesto se partire con un pippone filosofico e poi mi sono detto che alla fine la mia voglia di iniziare questo programma è nata proprio dalla mia tesi in filosofia sull'ascolto e che quindi prima di pensare a puntate tematiche che partiranno dal prossimo mese, andranno avanti nel 2025, mi fa piacere iniziare con una bella introduzione che renda più esplicito perché mi piace parlare di musica e non solo ascoltarla. La tesi che ho scritto appunto l'anno scorso era intitolata Ascoltare per comprendere e in pratica andava a indagare in quali modi il mondo dei suoni e l'ascolto possono aiutarci a comprendere il mondo. Ne abbiamo già un po' parlato il mese scorso ricordandoci che nella nostra cultura occidentale un senso prevale alla grande sugli altri ed è il senso della vista. Tendiamo a guardare il mondo, ad analizzarlo, ad osservarlo con gli occhi e lasciamo meno spazio alla sensibilità che viene dall'ascolto, ma come anche dal tatto, dall'odore, nel cercare di comprendere quello che ci circonda. Quindi prima di parlare di ascolto e prima di ascoltare ho pensato sia nella mia tesi che adesso che sia importante capire perché il senso della vista viene posto come più importante, più utile e comunque viene usato di più nella comprensione del mondo che ci circonda. Tutto ciò ovviamente nella nostra cultura occidentale perché molte culture diverse vedono o comprendono i sensi in modi diversi e riconoscono una gerarchia diversa di importanza tra un senso e l'altro. Se partiamo dalla cultura occidentale, come tutto sempre, si deve iniziare dai greci, non solo dalla filosofia, ma ancora prima dal mito, e quindi in questo caso da Ulisse. Prima di parlarne un pochino, quindi vi propongo una traccia che si chiama Ithaca di Gerardo Núñez. L'analisi che vi propongo l'ho letta nel libro L'invenzione della terra di Franco Farinelli, che è un geografo che appunto ha scritto questo libro nel quale traccia come siamo arrivati a concepire la terra, il mondo anzi, non come qualcosa che ci circonda e con cui abbiamo a che fare, ma come una sorta di piano cartesiano, qualcosa da analizzare in modo geometrico, quasi matematico. Secondo Farinelli è stato Ulisse il primo appunto a dare uno sguardo sul mondo che non si non parte dall'esperienza, ma parte appunto da una razionalizzazione. È una storia divertente. Succede quando Ulisse e la sua ciurma stanno scappando dal ciclope e Ulisse è tutto contento di averla scampata e decide di beffeggiare Polifemo e di urlargli il proprio nome. Finora ovviamente si era fatto chiamare nessuno, decide di dire comunque io mi chiamo Ulisse. Però sono in barca e deve calcolare una distanza che sia abbastanza grande da non essere raggiunti da un eventuale masso lanciato da Polifemo contro di loro. Allora il primo passo nell'Odissea dice che Ulisse urla, scherna Polifemo nel momento in cui, e quoto, tanto fummo lontani quanto si arriva col grido. Questo vuol dire che sta facendo un rapporto basato sull'esperienza, su un grido, su un qualcosa di corporeo che si diffonde nell'ambiente. E questo calcolo non funziona perché Polifemo effettivamente tira su un masso, lo scaglia contro la barca, non solo riesce a raggiungere la distanza, ma copre una distanza ancora maggiore, quindi il masso si getta in mare dopo la barca, crea un'onda enorme che riporta tutta la ciurma indietro. Che sbatti, devono riniziare, devono ripartire, riniziano a scappare, ma Ulisse comunque non ce la fa ad ammettere di aver sbagliato. Allora decide di schernire Polifemo un'altra volta. E questa seconda volta fa un calcolo mentale, per cui grida di nuovo a Polifemo, ma lo fa quando due volte tanto di mare avevamo percorso. E qua Farinelli nota che se prima si parlava di un grido, quindi si parlava di qualcosa di corporeo, adesso per la prima volta c'è proprio un calcolo mentale, un calcolo matematico, che ha come unico strumento empirico l'occhio, ma un occhio che diventa subito un occhio mentale, un occhio della mente, e che quindi diventa subito qualcosa di razionale, che guarda il mondo facendo dei calcoli, invece che provando delle esperienze. E nel momento in cui si parla di occhio della mente, suona subito la teoria, la filosofia platonica, che in effetti fu proprio la prima filosofia in Occidente a sistematizzare questa concezione del senso della vista come di un senso in grado di comprendere il mondo con più forza degli altri. Devo dire che un altro motivo per cui mi sono detto ma sì dai, facciamo il pippone filosofico in questa seconda puntata era l'idea di mettere ma quale idea nel momento in cui si parla di Platone, e quindi eccoci qua. In discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato, Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato, le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca, sulla pista diavolata lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e mi ha fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo biffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è? Che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? Ti farà girare il mondo senza avere mai le cose che pretendi, e scusa in fondo, scusa tu che dai. Che idea? Quale idea? Balla. M'è venuta una pensata, nella tana l'ho portata, ho versato un'aranciata, lei s'è fatta una risata. mio whisky si è aggrappata ai 5 litri, si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata. Ma guardato, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah! Si dice così, no? E poi, che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo un po' come te. E poi chi avresti di speciale che in un altro no non c'è? Che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? Quindi si parla di Platone, si parla di idee. È una teoria della conoscenza che più o meno è abbastanza conosciuta da chiunque, ma ripetiamo, il riassunto è che secondo Platone noi abbiamo già visto in un al di là tutto quello che ci circonda nel mondo in forma di idee, di prototipi perfetti, specifici, idealizzati appunto, che andiamo a riconoscere negli oggetti del mondo. Quello che ci interessa in questo momento è appunto il fatto che le idee vengono viste con gli occhi, vengono osservate, vengono contemplate, e da qui infatti si riconosce anche il significato di contemplazione, che vuol dire sia guardare sia comprendere. È proprio un'eguaglianza, una congruenza che si è portata poi nel corso della cultura occidentale fortissima, è sempre rimasta importantissima nella nostra cultura, appunto l'idea tra comprendere e guardare, che poi diventa appunto per esempio la luce della ragione dell'illuminismo, è stata l'occhio della mente di Platone, appunto quest'idea che non ci servono gli altri sensi, non ci servono necessariamente le orecchie, la pelle, il naso e la bocca per comprendere il mondo nel momento in cui riusciamo a guardarlo. Sempre riprendendo Franco Farinelli, che è stato un po' anche la mia guida nell'analisi di questi temi, lui afferma che quello che è stato prima proposto, immaginato dalla mitologia e dalla storia di Ulisse e poi più sistematizzato dalla filosofia di Platone viene effettivamente concretizzato nella cultura rinascimentale. Nella cultura rinascimentale e quindi nell'invenzione della prospettiva lineare, che per la prima volta sistematizza in modo matematico, concreto, molto preciso l'idea di guardare il mondo come se fosse una scacchiera geometrica, come se fosse un piano, quasi un piano cartesiano da analizzare. Esattamente il contrario di quello che ci propone quel pazzo di Battiato nella sua prospettiva Nevsky, in cui di analizzabile c'è davvero ben poco. Un vento a 30 gradi sotto zero, incontrastato sulle piazze vuote contro i campanili, a tratti come raffiche di mitra, disintegrava i cumuli di neve. E intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari. E intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari. Seduti sui gradini di una chiesa, aspettavamo che finisse messa e uscissero le donne. Poi guardavamo con le facce assenti la grazia innaturale di Nijinsky. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. L'inverno con la mia generazione, le donne curve sui telai vicine alle finestre. Un giorno sulla prospettiva Nevsky, per caso vi incontrai Igor Stravinsky. E gli orinali messi sotto i letti per la notte, un film di Eisenstein sulla rivoluzione. E gli orinali messi sotto i letti per la notte, un film di Eisenstein sulla rivoluzione. E studiavamo chiusi in una stanza la luce fioca di candele e lampade a petrolio. E quando si trattava di parlare, aspettavamo sempre con piacere. E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire. E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire. Quello che è successo proprio a livello simbolico con la prospettiva è che filosofi, scienziati e artisti hanno pensato di riuscire a riprodurre davvero fedelmente e oggettivamente il modo in cui guardiamo il mondo. In realtà però ci sono un paio di problemi che diventano evidenti appena si pensa con uno spirito critico a riguardo. Il primo è che la prospettiva prevede un punto di vista che è fisso e proiettato all'orizzonte, mentre noi abbiamo due occhi che sono sferici e in continuo movimento dentro al mondo. Quello che ne risulta è che uno sguardo prospettico sul mondo è uno sguardo che avviene attraverso una finestra, e quindi è uno sguardo che distacca chi osserva da tutto ciò che ha osservato. È uno sguardo che toglie ovviamente i sapori, gli odori, le sensazioni fisiche, ed è uno sguardo che oggettifica e immobilizza. Ovviamente di questo non è di per sé un problema, però diventa un problema nel momento in cui viene preso come uno sguardo davvero oggettivo di quella che è la realtà intorno a noi. Un'idea filosofica che viene poi ereditata da Cartesio, il padre della filosofia moderna e colui che segnò tantissimo lo sviluppo della filosofia, della scienza e della cultura nei secoli a venire. E quindi vi propongo adesso una canzone che mi ha molto stupito. È intitolata Descartes, è di Poria Flames, è bellissima. Non mi sembra che parli di Cartesio, perché propone un'idea di essere se stessi in un modo così limpido, ma anche concreto e corporeo, che forse non viene tanto esposta nella filosofia cartesiana. Esto está bien y aquello está mal. Yo no me escapo ni me escondo. Elijo, descarto, barro, confirmo, selecciono. O al menos creo que Ok, mentre andava la traccia mi sono in realtà pentito di aver detto che qualcosa non possa essere trasmesso dalla filosofia cartesiana, nel senso che ho sentito più volte dire da chi ne sa di più di Cartesio di quanto ne so io, che in realtà è una filosofia molto più interessante, molto più corporea, molto meno mentale di quello che viene studiato. Quello a cui mi riferisco io è più l'effetto che la filosofia di Cartesio ha poi avuto nella cultura e nella filosofia occidentali, quindi come sono state prese e ricevute dai filosofi successivi. E come sono state prese e ricevute? Beh, hanno avuto l'effetto di sostanzialmente definitivamente eliminare la questione del corpo da quella che è l'esperienza, la comprensione e la concezione del mondo. Sappiamo, è molto famoso il detto cogito ergo sum, penso dunque sono. Quindi questo essere, questo esistere nel mondo deriva in fin dei conti solo da un atto mentale. E ancora una volta Cartesio, se pensiamo invece al suo aspetto più empirista, quindi a come lui propone che noi arriviamo ad avere una corrispondenza di quello che pensiamo e di quello che è il mondo là fuori. Nel senso, lui è arrivato a proporre, ok, sono sicuro di essere perché penso. Il passo successivo che si è dovuto chiedere è, ok, ma come faccio a essere sicuro che quello che penso corrisponde alla realtà che ho di fronte a me? Sempre, ancora una volta, grazie alla vista, grazie alle immagini mentali che secondo lui noi ci facciamo del mondo. Delle immagini che corrispondono con il mondo intorno a noi grazie ai nostri occhi che vanno a prendere le parti del mondo. In realtà poi sorge sempre il dubbio di ma come siamo sicuri che i nostri occhi davvero vadano a prendere le parti giuste del mondo e a rifletterle giustamente nella nostra mente? Siccome rimane un problema irrisolvibile, l'unico modo che trova di Cartesio di risolverlo è quello di dimostrare l'esistenza di Dio e di dire se Dio esiste per forza non ci sta ingannando e sta facendo sì che le nostre immagini mentali corrispondano a quello che c'è nel mondo. In ogni caso, in tutto ciò ancora una volta abbiamo un'equazione di vedere e comprendere, un'equazione che poi è diventata ancora più forte in quella che è la scienza moderna, che parte molto da Cartesio, che è stato appunto uno dei filosofi che ha dato le fondamenta filosofiche all'inizio della scienza moderna. E quindi una scienza che di nuovo cerca di analizzare, cerca di comprendere, ma mai di sentire, mai di percepire, mai di esperire, che è quello che cerchiamo di fare noi ascoltando in questi momenti. E allora, parlando di scienza, la prossima traccia che vi propongo è Big Science di Laurie Anderson, una traccia dell'omonimo album Big Science, in cui Laurie Anderson ne fa e ne dice una più del diavolo, sempre parlando di scienza, ma come faceva Battiato con la prospettiva Nieschi, ribaltando completamente quella che noi abbiamo come idea di cosa può essere la scienza. And long cars. thanks for the ride. Quindi, tirando le somme, che viviamo in un mondo oggettificante, in un mondo che privilegia a volte fin troppo la razionalità, la pretesa di oggettività, rispetto invece all'esperienza concreta, corporea ed emotiva, credo che sia una cosa abbastanza condivisa. Quella che è la mia tesi è che siamo arrivati a questo punto non solo, ma anche per un'idea della percezione e proprio del nostro modo di percepire il mondo che privilegia il senso della vista, ma non una vista corporea, una vista come può essere quella del pittore, della pittrice che guarda il mondo e che dopo averlo guardato ci gioca. Una vista molto contemplativa, molto astratta, molto idealizzante. Riprendendo Faravelli, con cui abbiamo iniziato questa piccola genealogia della filosofia della percezione nella cultura occidentale, c'è una sua citazione che mi è piaciuta davvero tanto, nella quale lui dice: «Ed è davvero straordinario come alla fine, tutto sommato, la storia della conoscenza del mondo è una storia di due globi e di come questi due globi, queste due palle, due sfere, quella della Terra e quella del nostro occhio, facciano tanta fatica a riconoscersi, a mettersi in contatto, per così dire, e a guardarsi come davvero sono». Quindi se nel concreto, nell'esperienza, abbiamo queste due palle che interagiscono tra di loro, quello che è stato fatto è di appiattire la palla terra, la palla mondo, e di idealizzare, esternalizzare, far scomparire, buttare all'infinito la palla dei nostri occhi, le palle dei nostri occhi, e farle diventare qualcosa di astratto e mentale. Quello che quindi mi propongo di fare nelle prossime puntate è di creare puntate tematiche in cui, ascoltando ma anche guardando, infatti stavamo pensando di fare una puntata sul paesaggio sonoro che partirà con una passeggiata sonora, quindi una passeggiata che si concentrerà sull'ascoltare la città, ma anche inevitabilmente sul guardarla. In ogni caso, questo era un piccolo spoiler. Quello che appunto mi propongo di fare è proporre dei momenti d'ascolto in cui trovare delle modalità diverse in cui andare a conoscere e comprendere il mondo e lo spazio che ci circonda. Un po', per esempio, come ha fatto Lucio Corsi nel suo carinissimo album dedicato agli animali della Maremma, che quindi ci va a raccontare un paesaggio intero e le sue sfaccettature grazie alla musica e alla poesia. Houston, che sfortuna. Siamo arrivati tardi, c'è una lepre sulla luna. Houston, che sfortuna. Siamo arrivati tardi, c'è una lepre sulla luna. E c'è arrivata prima di noi nello spazio. Senza troppo impegno gli è bastato un salto. Houston, che sfortuna. Siamo arrivati secondi, c'è una lepre sulla luna. Houston, che sfortuna. Siamo arrivati secondi, c'è una lepre sulla luna. E c'è arrivata prima di noi, prima dei russi. Senza tutti questi calcoli, senza discorsi. Gli è bastato un salto da mezzanotte in su, verso una luna a due facce, perché la terra ne ha una e a lei ne servono di più, perché sia uomo che donna, perché è città e campagna. Houston, che facciamo? Portiamo avanti la missione oppure ce ne andiamo? Houston, che paura. Ci guarda fissi e vasta quanto una pianura. E c'è arrivata prima di noi senza tute. Pensavo fosse disegnata sulla luna dalle buche. Gli è bastato un salto da mezzanotte in su, verso una luna a due facce, perché la terra ne ha una e a lei ne servono di più, perché sia uomo che donna, perché è città e campagna. Ultimo pensiero da condividere è necessario prima di terminare con un po' di musica questa puntata, e cioè il fatto che finora abbiamo parlato di percezione e quindi da un punto di vista molto o estetico, quindi che tiene in conto qual è il nostro modo di esperire l'ambiente circostante a noi, o proprio quasi cognitivo, qual è il nostro modo di comprendere il mondo circostante a noi. Ma io credo sempre che la filosofia sia e debba essere una pratica concreta, una pratica politica, sociopolitica, e che quindi in realtà, anche se si parla di percezione, anche se si parla di estetica, la cosa importante nel momento in cui impariamo ad ascoltare il mondo è quella di riuscire anche poi ad ascoltarci tra di noi. Mi sembra anche una cosa abbastanza ovvia, ma sempre bene ribadirla una volta in più. E quindi finiamo questa puntata con un po' di flusso sonoro di pezzi molto diversi tra loro, ma che sono accomunati da titoli, e quindi immagino pensieri, svarioni immaginari da parte di chi l'ha composti, che vanno a pensare proprio allo spazio e al tempo. È uno spazio che non è uno spazio oggettificato, ma uno spazio che diventa un luogo e allo stesso tempo uno spazio in cui accade di tutto e di più. Quindi avremo di Nicolas Jaar "Space is only noise if you can see it", "Space is the place" di Sandra e "Time" di Lafur James. the place. Space is the place, yeah. Space is the place. Space is the place. Space is the place. Space is the place, yeah. Space is the place. Space is the place. Space is the place. Space is the place, yeah. Space is the place. Space is the place. Space is the place. Space is the place, yeah. Space is the place. Space is the place. Space is the place. Space is the place, yeah. Space is the place. Bene, questo era quel pezzo di Sun Ra, di cui tra l'altro avremo l'occasione di parlare nuovamente in puntate successive e di ascoltare ovviamente. E questo era Space is the Place, un pezzo che ci racconta di spazi e luoghi assolutamente inguardabili tramite un orecchio razionalizzante come quello del... un occhio razionalizzante come l'occhio della mente di Platone. Ma spazi e luoghi che forse possiamo ascoltare in tutta la loro pazzia e confusione. Mi sembra il modo migliore per salutarci e ci rivediamo, ci risentiamo. Vedete quanto è pervasivo la dittatura dello sguardo. Ci risentiamo fra un mese. Ciao. Thank you. Space is the place.